Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Papà Rouault non si sarebbe affatto lamentato se qualcuno lo avesse liberato da quella figlia che non gli serviva proprio in casa. Quando cominciò a notare che Charles diventava rosso accanto a sua figlia e cominciò a sospettare che un giorno o l'altro avrebbe ricevuto la domanda di matrimonio, ruminò in anticipo l'intera faccenda. Il pretendente lo trovava un tantino meschino, insomma non era il genero che aveva sperato. D'altra parte aveva la fama di comportarsi bene, d'essere piuttosto economo, molto istruito e inoltre era più che sicuro che non avrebbe mercanteggiato troppo sulla dote. Ora, poiché papà Rouault era ormai costretto a vendere un 22 acri del suo ed era duramente indebitato con il muratore, il sellaio e il perno del frantoio aveva assoluto bisogno d'essere rifatto, finì per dirsi «se me la chiede, gliela do». Per San Michele, Charles era andato a trascorrere 3 giorni ai Bertaux. L'ultimo dei 3 giorni gli era sfuggito via come i 2 precedenti in un rinviare l'iniziativa di quarto d'ora in quarto d'ora. Papà Rouault lo riaccompagnò. Camminavano in un sentiero incassato tra i campi. Tra poco si sarebbero lasciati. Era il momento. Charles si concesse una tregua sino alla svolta della siepe. Poi, quando l'ebbero superata, mormorò: «Padron Rouault, vorrei proprio dirvi una cosa». Si fermarono tutte e 2, ma Charles s'era zittito. «E allora me la raccontate la vostra storia? Come se non sapessi già tutto», disse papà Rouault e ridacchiava quasi tra sé. «Papà Rouault, papà Rouault», balbettò Charles. «Ah, io, ecco, non domando di meglio», continuò l'agricoltore. «Sono convinto che la piccola sia della mia stessa idea. Comunque, sarà bene conoscere il suo parere. Andate, adesso io me ne torno a casa. Se è un sì, statemi bene a sentire. Non avrete bisogno di precipitarvi da noi, anche per non dar troppo nell'occhio della gente. E poi non è consigliabile che lei si emozioni tanto. Ma non voglio neppure che stiate a mangiarvi il fegato nel dubbio. Aprirò completamente le imposte della finestra. Vi basterà sporgervi sulla siepe. Lo vedrete perfettamente da qui dietro, il segnale». E s'allontanò. Charles attaccò il suo cavallo a un albero. Corse a mettersi nella posizione indicata sul sentiero. Restò in attesa. Passò una mezz'ora e poi lui contò 19 minuti sul suo orologio. D'improvviso ci fu uno schiocco contro il muro là davanti. Le imposte erano spalancate. La catenella tremolava ancora. Il giorno dopo, alle 9, Charles era alla fattoria. Emma avvampò al suo ingresso, sforzandosi di sorridere un poco per darsi un contegno. Papà Rouault abbracciò il futuro genero. Fu rimandata più tardi ogni discussione di interessi. Ne avevano d'altra parte di tempo davanti, dato che il matrimonio non poteva venir decorosamente celebrato prima della fine del lutto di Charles, vale a dire la prossima primavera. L'inverno trascorse tutto in attesa. La signorina Rouault si occupò del proprio corredo. Una parte ne fu commissionata a Rouen e lei confezionò con le sue stesse mani camicie e cuffiette da notte, seguendo certi figurini di mode avuti in prestito. Durante le visite di Charles alla fattoria si parlava dei preparativi di nozze, ci si chiedeva dove sarebbe stato meglio imbandire il pranzo, ci si perdeva a prevedere il numero delle portate e la loro più opportuna successione. In verità Emma avrebbe desiderato sposarsi a mezzanotte, alla luce delle torce, ma una simile idea non poteva certo essere capita da papà Rouault. Ci fu dunque una festa nuziale alla quale parteciparono 43 persone. 43 persone che restarono a tavola 16 ore. Si ricominciò a mangiare il giorno dopo e un poco si continuò anche i giorni seguenti. La gran tavolata era stata imbandita sotto il portico della rimessa. C'erano bene in mostra 4 lombi di bue, 6 fricassee di pollo, una quantità di vitello in umido, 3 cosciotti di montone e proprio al centro un porcellino dal latte arrostito circondato da 4 sanguinacci alla cetosella. Agli angoli si levavano le caraffe dell'acquavite. Vassoi di crema gialla tremolante al minimo oscillare della tavola ostentavano, disegnate a confettini sulla liscia superficie, le iniziali dei novelli sposi. Charles, di natura, non era portato all'allegria. Durante la festa non aveva minimamente brillato. Rispose maluccio alle punzecchiature, alle freddure, ai doppi sensi, ai complimenti e alle allusioni grassocce che a partire dalla minestra a tutti si fecero un dovere di indirizzare allo sposo. 2 giorni dopo le nozze, gli sposi dovettero andarsene. Charles, a causa dei suoi malati, non poteva stare più a lungo assente da Toast. Papà Rouault li fece portare a casa dal suo calesse. Lui stesso li accompagnò sino a Bassonville. Là abbracciò la figlia un'ultima volta, pose piede a terra e tornò indietro. Charles, Bovary e signora arrivarono a Toast verso le 6. Tutti i vicini s'affacciarono alla finestra per guardare la nuova moglie del loro medico. La vecchia serva si presentò, salutò, si scusò perché la cena non era ancora pronta e invitò la padrona a fare la conoscenza della casa. Emma salì a vedere le camere. La prima non era affatto ammobiliata, ma la seconda, quella coniugale, aveva da esibire un letto di mogano in un'alcova di panno rosso. Una scatola fatta di conchiglie ornava il cassettone e sul secretaire, vicino alla finestra, era infilato in un bicchiere un mazzetto di fiori d'arancio legato con un nastro di raso bianco. Era un bouquet da sposa, il bouquet dell'altra. Lei si incantò a guardarlo. Charles se ne accorse e andò a buttarlo nel vicino solaio. Mentre Emma, sprofondata in poltrona, la serva ordinava le sue cose intorno a lei, pensava ai suoi fiori d'arancio, che erano avvolti in un cartone, e si domandava, fantasticando, cosa ne sarebbe stato se lei fosse morta. I primi giorni fu tutta occupata a studiare una nuova sistemazione della casa. Tirò via i globi dai doppieri, fece cambiare tappezzeria, ridipingere le scale, volle le panchine in giardino tutti intorno alla meridiana. Arrivò a informarsi su quanto sarebbe venuta a costare una vasca con un getto d'acqua e relativi pesci. Inoltre il marito, sapendo che le piaceva andare in giro in vettura, trovò un boc d'occasione. Aveva avuto un tempo fanali nuovi e parafanghi in cuoio trapunto, somigliava quasi a un Tilbury. Dunque, lui era felice, non aveva il minimo pensiero. Un pranzo tra loro due soli, una passeggiata la sera sulla strada maestra, un gesto della mano sui lisci capelli di lei, la semplice vista del suo cappello di paglia attaccato alla maniglia d'una finestra e altre minime cose di cui Charles prima non avrebbe mai sospettato il gusto, assicuravano attualmente la continuità del benessere. Sino ad allora, cosa aveva avuto di buono in tutta la sua esistenza? Forse l'epoca del collegio, quando gli toccava starsene imprigionato tra quegli alti muri, così solo in mezzo a tutti quei compagni più ricchi o più forti di lui, pronti a ridere per il suo accento, a sbeffeggiarlo per i suoi vestiti, quei persecutori che le madri rimpinzavano in parlatorio di dolcetti contrabbandati nei manicotti? O forse più tardi, l'epoca degli studi di medicina, quando lui non aveva mai in tasca i soldi per invitare a ballare qualche piccola operaia di cui avrebbe potuto fare la sua amante? E poi aveva dovuto pur vivere per 14 mesi con la vedova, i cui piedi nel letto lo gelavano come se fossero pezzi di ghiaccio. Ma ora quella graziosa donna adorata era sua per sempre. Lui non poteva proprio trattenersi. Ogni momento toccava il pettine, gli anelli, il fazzoletto da collo di lei. A volte le dava grossi baci sulle guance, altre volte le somministrava tanti piccoli baci in fila per tutta la lunghezza del braccio nudo, dalle punte delle dita sino alla spalla. Lei lo respingeva, mezzo divertita e mezzo annoiata, come si fa con un bambino che non vuol lasciarci stare. Prima del matrimonio lei aveva proprio creduto di provare amore per lui. Ma dato che la felicità non aveva coronato un tale amore come avrebbe dovuto, pensava di essersi sbagliata. Emma cercava di immaginare cosa esattamente si intendesse nella vita con quelle parole felicità, passione, ebbrezza che le erano apparse tanto belle nei libri. Thank you. Lei aveva letto Paolo e Virginia e aveva sognato la casetta di bambù, il negro Domingo, il cane Fido, ma soprattutto la dolce amicizia di un affettuoso fratellino capace di andare a cercarti rossi frutti su alberi più alti di campanili, di correrti incontro a piedi nudi sulla sabbia recando in dono un nido d'uccello. Quando ebbe 13 anni, il padre la portò in città per metterla in convento. I primi giorni di convento lei non s'annoiò minimamente. Le piaceva talmente la compagnia delle suore che per divertirla la conducevano nella cappella cui si accedeva dal refettorio attraverso un lungo corridoio. Quando andava a confessarsi, inventava qualche peccatuccio veniale per poter restare più tempo possibile lì, nell'ombra, in ginocchio, la faccia premuta contro la grata nel bisbigliare del prete. Le similitudini di fidanzato celeste, di sposo celeste, d'amante celeste e di sposalizio eterno, ricorrenti spesso nelle prediche, le suscitavano in fondo al cuore inattese dolcezze. La sera, prima della preghiera, si faceva una lettura religiosa in classe. Durante la settimana si alternavano riassunti di storia sacra e le conferenze dell'abate Freissinou. La domenica c'erano come ricreazione passi del genio del cristianesimo. Con quale attenzione lei ascoltò le prime volte la sonora lamentazione delle malinconie romantiche, ripetuta da tutti gli echi della terra e dell'eternità. Se la sua infanzia fosse trascorsa nel retrobottega di un quartiere di mercanti, forse lei si sarebbe aperta allora alle liriche suggestioni della natura che di solito ci raggiungono solo nelle traduzioni degli scrittori. Ma la conosceva anche troppo bene la campagna, lei. Sapeva il belato dei greggi, la confezione dei latticini, l'uso degli aratri. Assuefatta agli aspetti più sereni, si rivolgeva a quelli più drammatici. Amava il mare solo quando era in tempesta e il verde solo quando ricopriva le rovine. Doveva poter ricavare dalle cose una specie di profitto personale. Respingeva come inutile quanto non contribuiva immediatamente a saziare la voracità del suo cuore. Aveva un temperamento più sentimentale che artistico. Voleva emozioni e non paesaggi. Frequentava il convento una vecchia zitella che ogni mese veniva per 8 giorni a cucire biancheria. Era protetta dall'arcivescovado come appartenente a un'antica famiglia di nobili caduti in rovina sotto la rivoluzione. Consumava i suoi pasti al refettorio alla tavola delle suore e, dopo mangiato, si intratteneva a conversare un poco con loro prima di risalire al suo lavoro. Spesso le educande sgusciavano fuori dalle classi per vederla. Quella sapeva a memoria canzonette galanti del secolo prima e le ripeteva a mezza voce continuando a lavorare con l'ago. Raccontava un'infinità di storie, informava sulle novità, si incaricava di far commissioni in città e prestava di nascosto alle grandi qualche romanzo che portava nelle tasche del suo grembiule per leggerne avidamente un capitolo nelle pause del suo cucito. C'erano sempre amori, amanti maschi e amanti femmine, dame perseguitate, precipitanti in deliquio o in padiglioni solitari, postiglioni trucidati a ogni tappa, cavalli fatti scoppiare a ogni pagina, tenebrose foreste, tumulti del cuore, giuramenti, singhiozzi, lacrime e baci, barchette al chiar di luna, usignoli nei boschetti, eroi forti come leoni, dolci come agnelli, virtuosi come non è possibile essere, sempre ben vestiti, sempre pronti a piangere come fontane. Thank you. 15 anni, dunque, Emma si sporcò le mani per 6 mesi con quella polvere di vecchie sale di letture. Al corso di musica, nelle romanze che lei cantava, c'erano sempre angioletti dalle ali d'oro, madonne, lagune, gondolieri, miti, composizioni che le lasciavano intravedere, attraverso la stupidità dello stile e l'imprudenza della melodia, l'affascinante fantasmagoria delle realtà sentimentali. Qualcuna delle sue compagne portava in convento i keepsakes ricevuti come strenna. Bisognava nasconderli, era un problema, li si leggeva in dormitorio. Maneggiando con delicatezza quelle belle legature di raso, Emma fissava sguardi perduti sui nomi degli autori sconosciuti, il più delle volte Conti o Visconti che avevano firmato quegli scritti. Fremeva, sollevando con il respiro la velina che si alzava per metà, poi ricadeva dolcemente sulla pagina. Dietro la balaustra d'un balcone, ecco un giovane con un corto mantello serrar tra le braccia una fanciulla bianco vestita con una borsa appesa alla cintura. Oppure, ecco gli anonimi ritratti delle lady dai boccoli biondi sogguardanti da sotto i tondi cappelli di paglia con i loro grandi occhi chiari. Ne mancavate voi, sultani dalle lunghe pipe, illanguidenti sotto le pergole tra le braccia delle baiadere, e giaurri, sciabole turche, berretti greci, e soprattutto non mancavate voi, lividi paesaggi di ditirambiche contrade, che tanto spesso ci mostrate insieme palme e abeti, qualche tigre a destra, un leone a sinistra, minareti tartari all'orizzonte, rovine romane in primo piano, e infine cammelli accovacciati, e tutto intorno una linda foresta vergine, con un gran raggio di sole tremolante nell'acqua, e sull'acqua cigni, bianche scaglie sempre più lontane contro il fondo grigio acciaio. La lampada appesa al muro sopra la testa di Emma rischiarava tutte quelle meraviglie del mondo, sfilanti una dopo l'altra nel silenzio del dormitorio. Da qualche parte remota, una carrozza si attardava a rotolare sui viali. Morì sua madre. Lei pianse molto i primi giorni. Si fece fare un medaglione funebre con i capelli della defunta e in una lettera che inviò ai Bertaux, tra una quantità di tristi riflessioni sulla vita, domandava di venire sepolta un giorno in quella stessa tomba. Quel brav'uomo di suo padre la credette malata. Andò a vedere come stesse. Emma fu intimamente orgogliosa di essere arrivata al primo colpo a quel raro ideale di pallida esistenza cui non pervengono mai i cuori mediocri. Si lasciò dunque scivolare nei meandri lamartiniani, prestò orecchio alle arpe sui laghi, ai canti dei cigni morenti, a ogni caduta di foglie, alle vergini purissime che ascendono al cielo e alla voce dell'eterno discorrente per le valli. Quando tutto questo cominciò ad annoiarla, non volle ammetterlo, insisté a illudersi, dapprima per semplice abitudine, poi per vanità a credersi fatta in un dato modo, sinché un giorno si meravigliò nel trovarsi tranquilla, priva di tristezze nel cuore come di rughe sulla fronte. Le buone suore che avevano fatto tanto assegnamento sulla sua vocazione s'accorsero con grande stupore che la signorina Rouault pareva sottrarsi alle loro sollecitudini. D'altra parte, loro le avevano prodigato un tal numero di uffizi, ritiri, novene, prediche, le avevano talmente predicato il rispetto dovuto ai santi e ai martiri, le avevano talmente consigliato come assicurarsi la modestia del corpo e la salute dell'anima, che Emma si comportò come i cavalli troppo imbrigliati. Si fermò d'improvviso e il morso le uscì dai denti. La sua mente, positiva nel vortice degli entusiasmi, che aveva amato la chiesa per i fiori, la musica per le parole delle romanze e la letteratura per gli eccitamenti passionali, recalcitrava davanti ai misteri della fede, almeno quanto si ribellava ai rigori della disciplina contraria alla sua natura. Così, Quando suo padre si decise a toglierla dal convento, nessuno rimpianse quella partenza. Anzi, la superiora era del parere che negli ultimi tempi l'allieva aveva troppo mancato di rispetto alla comunità. Elsa Galbato ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert, riduzione di Chiara Nicoletti, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it